Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Siamo all'appuntamento estivo con il cacciatore di libri ogni sabato e ogni domenica alle 10 del mattino. Insomma, vi stiamo proponendo un po' le interviste agli scrittori che hanno caratterizzato quest'ultima stagione editoriale. Oggi è la volta di Andrea Vitali ed Elena Stancanelli. Partiamo da Andrea Vitali. Forse qui non ci sarebbe neanche bisogno di presentazioni. Diciamo che ogni volta che esce un suo romanzo arriva puntualmente in vetta alle classifiche. Sicuramente è uno degli scrittori italiani più amati. Ed è arrivato in classifica, quando è uscito, anche Le mele di Kafka, pubblicato da Garzanti. Stavolta però c'è una piccola novità. Vitali, ve lo assicuro, è andato in trasferta. Questo romanzo è ambientato sì a Bellano, Lago di Como, insomma come tutti gli altri, ma c'è una parte anche consistente che si svolge in Svizzera. Insomma, è una vera notizia per Andrea Vitali, che in genere non si schioda mai, neanche con la fantasia della sua Bellano, e per questo lo prendo un po' in giro, insomma, ma lui si fa prendere in giro volentieri perché è una persona veramente molto molto ironica. Protagonista di questo Le mele di Kafka è Abramo, un campione di bocce. Si sta preparando per una gara e però c'è un problema, perché il cognato sta male, la moglie dice no, dobbiamo partire, e il cognato e la moglie però vivono a Lucerna, da qui appunto la trasferta in Svizzera. Partiamo però da Abramo, appunto il giocatore di bocce. Che cosa rappresenta per lui questo sport? Sentiamo un po' come ce lo descrive Vitali. Beh, rappresenta tutta la vita sociale, tenendo conto che la storia ha un'ambientazione che, occhio e croce, anni 60, quindi sono anni in cui nell'architettura, diciamo, nell'architettura sociale, diciamo, di un paese, il gioco delle bocce era un momento, diciamo, di socializzazione estremamente importante, sia dal punto di vista della pratica, diciamo, ludica, sia dal punto di vista della pratica agonistica, se vogliamo chiamarla così. E l'Abramo Feracini è un agonista, cioè uno che esce dal paese per partecipare ai tornei, ai campionati provinciali, e porta in giro la bandiera, l'orgoglio, diciamo, del paese, visto che è un bocciatore, un giocatore di bocce di discreta bravura. Come dicevamo, in questo romanzo si va anche un po', diciamo, in trasferta, nel senso che addirittura all'estero, in Svizzera, a Lucerna, perché, insomma, adesso brevemente, senza spiegare troppo della storia, c'è il cognato dell'Abramo che, insomma, sta male, sta per morire, quindi la moglie dice no, dobbiamo andare lì, però lui deve tornare in tempo per questa gara di bocce. Da qui naturalmente nascono un po' di gag alla Vitali, mettiamola così. Come mai stavolta hai deciso di superare confini? Perché li ho superati nella realtà, non solamente nella fantasia. Infatti questa storia è nata proprio a Lucerna, in occasione di un giro fatto da quelle parti, e scoprendo in Lucerna, grazie all'accompagnatore che mi ha raccontato le bellezze di questa città svizzera, scoprendo l'aneddoto che è stato poi il motore della storia, perché l'aneddoto relativo alle mele di Kafka è, come dire, è stato un po' il magnete che ha richiamato a sé una serie di siparietti che non stavano ancora assieme come storia, e che hanno trovato invece una ragione di essere come storia proprio grazie a questo viaggio a Lucerna. Possiamo raccontarlo l'aneddoto di Kafka? Come no, perché pare che, cioè, la cosa è confermata. L'anno è 910 o 911, e Franz Kafka soggiorna a Lucerna in un alberghetto, tra l'altro anche di poche pretese, niente di che, per un 3 settimane. Alla fine del soggiorno si lamenta e litiga con il direttore dell'albergo perché, a suo dire, gli veniva fornita a tavola della frutta di scadente qualità, e gli svizzeri, che sono precisissimi, a ricordo di questo evento in quell'albergo, da allora nella hall viene esposto un cestello pieno di mele, che sono appunto le mele di Kafka. Non è una qualità di mele particolari o che vengono coltivate solo a Lucena, ma sono lì e si chiamano così proprio per ricordare quel fatto accaduto così tanti anni fa. E te, da questo così aneddoto, tac, ti è venuta la trama di questo romanzo? Come ti dico, ha messo insieme una serie di episodi. Di questi episodi ho dovuto solamente spostare la seconda coppia, il cameriere e sua moglie, e spostarli a Lucerna anziché immaginare una loro collocazione in qualche paese della provincia lombarda. È per quello che dico che l'aneddoto ha funzionato come calamita di queste storie, perché una volta che me l'ha raccontato, mi sono guardato in giro, ho detto viva Dio, le distanze tra Bellano e Lucera non sono così tante, ci può stare. Sono stato molto attento nel racconto a non raccontare troppo di Lucerna, perché la conosco in maniera molto superficiale, tenendo conto poi che il nucleo principale della storia è comunque sempre sui soliti luoghi. Il romanzo, come dicevamo, è ambientato, diciamo, fra il 55 e poi gli anni 60, insomma, dove le bocce erano uno sport, soprattutto nei paesi erano molto praticati. Adesso sembra essere uno sport per vecchi. Io francamente ho 46 anni, non sono vecchia e mi piace da morire giocare a bocce. A te? No, a me non ho mai giocato, sinceramente non ho mai praticato, tranne qualche cosa nei crotti di collina nelle domeniche dell'infanzia, quando si andava a mangiare al crotto e si giocava su quei campetti terrosi pieni di gobbe eccetera, ma non ho mai avuto una particolare attrazione né per le bocce né per il mondo delle bocce. Mi ha sempre invece molto attratto il contorno, la chiacchiera, proprio l'aneddotica su questo mondo, che è, come dicevi tu, esattamente un mondo dove ci sono ancora i riflessi di una provincia che non esiste più, perché i campi di bocce, quelli d'antan, sono spariti, cioè non esistono più i campi di bocce allegati alla trattoria o all'osteria. C'è la bocciofila col suo bel campo preciso nelle misure, nella costruzione, ma dove giocano dei professionisti. Per cui non mi sembra neanche più uno sport per vecchi, perché non esistono più, perlomeno per quella che è la mia esperienza, quelle strutture dove sì, allora gli anziani o vecchi che dir si voglia andavano a giocare, a bersi il mezzo di vino e a fare la partitella, tanto per far passare il pomeriggio o la domenica. Posso dire che adesso è diventato un po' vintage, ci sono dei ristoranti per esempio a Milano che sono nati accanto a vecchie bocciofile, quindi fa fico avere il campo da bocce insieme al ristorante. Beh, io posso solamente far fede di quello che dici, perché io i ristoranti di Milano non li conosco, non sono un praticante della città, non so, se me lo dici ci credo assolutamente che fa fico. Dici che va bene dire così o è troppo poco intellettuale? No, va benissimo, siamo perfettamente in linea con, diciamo, con l'aria che ispira in questo libro, quindi va benone. Senti, da scrittore come ti sei sentito appunto a parlare in parte di un luogo che tu stesso dicevi prima non conosco bene, come naturalmente Bellano, che sono i luoghi dove ambienti i tuoi romanzi, conosci dialetti, accenti, persone che ti danno ispirazioni, luoghi. In questo caso appunto hai deciso di fare una piccola trasferta. Al di là dell'aneddoto di Kafka, insomma, hai sentito la necessità di andare anche un po' oltre confine, ma di ritornare subito indietro? Sì, devo dire che la rivelazione dell'aneddoto mi ha fatto sentire in obbligo a centrare parte, una piccola parte della storia a Lucerna, non potevo fare diversamente. E la soluzione, giusto, quello che tu hai posto è una domanda interessante, perché c'era la soluzione del luogo. Io amo scrivere in un luogo che conosco, è piccolo, però perlomeno lo conosco abbastanza bene. Quindi l'abbiamo risolta utilizzando prevalentemente, allora, quei punti di riferimento cardinali per ciascuno di noi, un campanile, una chiesa, una grossa via, quei punti di riferimento che uno assume per non perdersi, e io poi riesco a perdermi comunque, o se no i profumi, gli odori, quindi utilizzando il profumo dell'aria, il colore della stagione eccetera, ho sostituito con queste cose quelli che sono i riferimenti che necessariamente non conoscevo, perché non sono lucernese e non posso, anche la stessa lingua, perché a Lucerna parlano molto tedesco assolutamente, ecco, l'abbiamo risolta col suono, cioè quindi le poche frasi riportate non sono in tedesco, sono quello che il Ferrascini sente come suono, quindi è una frase che non ha senso letteralmente, è il suono di questa voce gutturale e un po', diciamo, imperativa, che lo richiama a non toccare le mele di Kafka, cosa che peraltro non è vera, perché nella realtà si possono mangiare, eh? Io per questione proprio di racconto ho scritto una bugia, cioè che le mele erano lì solo in visione e non si potevano assolutamente toccare. E questo era Andrea Vitali che ci ha parlato di Le mele di Kafka, pubblicato da Garzanti. E se vi piacciono i romanzi di Andrea Vitali, vi segnalo che trovate alcune interviste su alcuni titoli su radio24.it. Dovete cliccare la sezione Il cacciatore di libri e poi nella fascetta della ricerca inserire appunto Vitali, così trovate un po' tutti i libri di cui abbiamo parlato negli ultimi anni. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri con Elena Stancanelli. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il cacciatore di libri. Per tutta la vita andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente, far finta che oggi sia un giorno normale. Un anno che passa, un anno in salita, che senso di vuoto, che brutta ferita, delusa da te, da me, da quello che non ti ho dato. Oh, quest'anno si è parlato tanto di questo libro, La femmina nuda, scritto da Elena Stancanelli, pubblicato dalla Nave di Teseo. È un libro, tra l'altro, che ha concorso al Premio Strega, è arrivato in cinquina, fra i cinque libri finalisti del Premio Strega. È un libro in cui molte persone si sono un po' riconosciute, sia uomini che donne. La protagonista è Anna, lei viene lasciata a oltre 40 anni, viene lasciata dal compagno e inizia un po' un percorso, veramente una discesa quasi verso la depressione. Ma soprattutto direi che protagonista di questo romanzo è l'ossessione, perché Anna inizia a controllare l'ex soprattutto attraverso i social. La Stancanelli in questo direi che molto probabilmente si è ispirata alla realtà che ci circonda. Sentiamola. Io penso che poi gli scrittori fanno questa cosa qua, cercano di capire qual è il punto anche della loro vita che va a toccare qualcosa che è un po' lo spirito del tempo, comunque qualcosa che sentono essere di tante persone. E questo è quello che ho cercato di fare io. Certamente io, come credo la maggior parte delle persone di questo tempo, sono passata attraverso una separazione, però appunto mi sembra di aver individuato in quella cosa lì un terreno di sofferenza molto comune, molto diffuso, molto comune. Ecco, questa sofferenza però che non rimane diciamo limitata alla persona che soffre perché la relazione è finita, ma diventa proprio un'ossessione di controllare l'ex sostanzialmente. In questo caso la tua protagonista vive in un mondo fatto di social, quindi c'è Facebook, riesce a diciamo craccare o indovinare insomma le password di Facebook del suo compagno, riesce addirittura con l'iPhone, lo possiamo dire, insomma, a seguire il famoso puntino verde, cioè capire dove si trova il suo ex compagno in quel momento. In questo senso i social, questi nuovi strumenti hanno aumentato le nostre ossessioni di controllo, o è sempre esistito questo fenomeno? Magari prima si faceva l'appostamento. Ci sono due cose da dire. La prima è che, come dicevi tu, questa ossessione parte da una separazione, parte da un dolore che ha a che fare con l'amore, ma poi prende una direzione completamente diversa e diciamo si modella sulle ossessioni che riguardano quella persona lì. È in qualche modo una specie di quasi una scusa, diciamo, per andare a esplorare suo malgrado dei lati oscuri di lei. E l'altra cosa è che io credo che le ossessioni amorose esistono da sempre, prendono forme diverse a seconda del tempo. Quello che però mi sento di poter dire è che a noi viene molto facile fare quello che fa Anna. È qualcosa per cui servono pochissime competenze. Come nelle fiabe, hai una porta che ti dice aprimi. Ed è più facile adesso aprirla, quella porta, appunto perché ci sono i social, ci sono gli strumenti, eccetera. Attraverso questa ossessione di controllo nella vita dell'ex, Anna scopre per esempio che l'ex ha diverse relazioni, va a letto con diverse donne, ma in particolar modo con una, alla quale tu hai voluto dare un nome preciso, Cane, perché ha un cane che chiama Cane. Però questo nome ha, come dire, anche una certa ruvidità, rudezza, non so come dire. Lei dice: Davide sta con cane, Davide sta facendo sesso con cane. È una parola aspra che hai scelto apposta, immagino. Molto di quello che Anna fa e pensa è un prodotto della sua immaginazione, e quindi lei costruisce questa avversaria, diciamo così, dandole prima di tutto un nome che faccia di lei appunto un essere da una parte un po' mitologico, una creatura mitologica, dall'altra un essere disprezzabile proprio per questo nome, perché l'ossessione e l'ossessione amorosa ha questa caratteristica che non esiste in quanto tale, non è che c'è un posto nel quale questa cosa è un totale prodotto dell'immaginazione di chi sta soffrendo. Così appunto ho scelto che Anna desse questo nome a questa donna perché appunto ha a che fare con le caratteristiche che lei proietta su questa donna. Ecco, guardare le mail dell'ex compagno che si scambia appunto con gli amanti o con, in particolar modo con cane, eccetera, non sono ovviamente secondo me frutto dell'amore, ma a questo punto, come dicevamo, di una propria nevrosi, di una propria ossessione, di non riuscire a affrontare il dolore e uscirne in maniera sana. Questa secondo te è una caratteristica più femminile, più maschile, o si distribuisce in modo uguale? Secondo me si distribuisce in modo uguale, e ha a che fare con il problema che abbiamo una specie di modalità sentimentale per la quale non abbiamo ancora gli strumenti. Noi affrontiamo quella che io chiamo serialità sentimentale senza che ci siano state date le istruzioni in qualche modo, no? I nostri genitori, i nostri nonni si comportavano in maniera diversa. Noi adesso dobbiamo affrontare nella nostra vita, nella maggior parte dei casi, almeno diciamo 2, 3, 4 relazioni importanti, il che significa entrare e uscire, che è una cosa molto innaturale che forse impareremo a fare, o forse ancora meglio immagineremo un modello sentimentale diverso. Ecco, secondo te ai 40-50 anni di oggi manca proprio il concetto di educazione sentimentale? Non lo so, io credo che come in molte delle cose che riguardano la nostra vita, vogliamo dirlo, liquida, come sì, si suol dire, ci sono tante cose che sono diventate difficili. Molte cose erano date per scontate, no? Appunto i nostri nonni, i nostri genitori stavano dentro quel modello lì, che era appunto a sua volta fallimentare, per carità, però era sempre quello in qualche modo. Invece noi dobbiamo sperimentare, provare, sapere, avere mille competenze, e questo è per certi versi snervante. Ecco, questo tuo libro, La femmina nuda, è proprio la storia raccontata in prima persona da Anna, che scrive una lunga lettera, diciamo così, a una sua amica per spiegare appunto che cosa ha passato in quel periodo e affrontare alcuni punti essenziali di quella sua ossessione, di quella sua nevrosi, di quel suo dolore. È la storia della caduta di questa donna. A un certo punto lei scrive, lei pensa, insomma: il desiderio è una parte essenziale della tua relazione con gli altri. Se smetti di desiderare, il mondo intorno a te piano piano scompare. Non hai più nessun mezzo per uscire dalla solitudine. Se non provi desiderio, il mondo non è interessante, non è niente. E persone che parlano, rumore, gesti incomprensibili. Io non provavo più desiderio. Insomma, questa donna finisce per autodistruggersi, per arrivare ad un livello di depressione vero e proprio, che lei poi soprattutto concentra sul suo corpo, nella relazione col suo corpo. In che modo? Questa frase che hai letto dimostra come Anna sia totalmente lontana da qualsiasi forma di saggezza, nel senso che appunto la saggezza dovrebbe essere esattamente il contrario, cioè definire il mondo non attraverso il desiderio ma attraverso la mancanza di desiderio. Quindi lei a un certo punto si rende conto che il suo non è più un corpo desiderante né desiderabile, e quindi comincia a deprivarlo, depauperarlo ulteriormente, smette di mangiare, fuma, si ubriaca tutte le sere, si dimentica del suo corpo, smette di avere una manutenzione quotidiana del suo corpo. Lei dice: non mi lavavo, non mi depilavo, non facevo niente delle cose che normalmente si fanno perché il corpo abbia quell'aspetto sociale, diciamo così, spendibile socialmente, e comincia a questa discesa agli inferi in qualche modo, sempre attraverso il suo corpo, quel corpo che poi invece al confronto con la donna, nel momento che è un po' il momento chiave del libro, quando lei trova queste fotografie di cane, per l'appunto, nell'account dell'ex compagno, fotografie erotiche di cane, in quel confronto tra due corpi femminili in qualche modo lei è come se si desse un colpo di reni e si ritrovasse, si rivedesse in questa... Lei riesce a risalire grazie poi al rapporto col suo corpo, quindi il corpo inizialmente è vittima e poi invece riesce a salvarla. Sì, riesce a salvarla anche perché... A mio parere, se c'è una cosa che si può dire di internet, che non è né cattivo né buono né cattivo, però è il posto nel quale il corpo non entra, fa un passo indietro. E lì dove il corpo non arriva può succedere qualsiasi cosa, una specie di foresta oscura dell'intelligenza. Quindi finché lei si è addentrata senza il suo corpo dentro quella cosa lì, è potuta arrivare in territori inimmaginabili. Nel momento in cui recupera il suo corpo fisicamente, anche incontra fisicamente la donna della questione, quindi in qualche modo smonta tutto quel castello immaginativo che aveva tenuto in piedi, lì la realtà, diciamo, torna a farsi viva e il corpo a dare segni. È curioso anche, ma poi non troppo, nel senso che poi lo vedo accadere nella vita quotidiana, che nel momento in cui questa relazione finisce, comunque Anna e Davide continuano a sentirsi, ogni tanto a vedersi, cioè continua ad esserci una pseudo relazione in un rapporto che non c'è più. E che cos'è? È l'incapacità veramente di mettere la parola fine a qualcosa? A questo punto è anche Davide lui che alimenta la nevrosi di Anna. Quello secondo me è un territorio pericolosissimo, che è quel territorio, quella no man's land che sta tra la fine di una relazione e l'inizio di un'altra relazione. C'è un punto nel quale due persone che si sono amate, che hanno condiviso un'intimità, che sono state così vicine l'una all'altra, si strappano l'una dall'altra. Che cos'è quella zona lì? Ecco, questo è quello che io intendevo quando dicevo noi non lo sappiamo fare. Non lo sappiamo fare perché non lo conosciamo, non sappiamo che cos'è. Che cosa succede quando due persone smettono di amarsi? Si disamano. Che cos'è il disamore? Quel territorio lì può produrre dell'orrore. Perché là dentro davvero si è preda di tutti i fantasmi. È possibile che due persone che hanno condiviso l'esistenza, la quotidianità, il dormire insieme, il far l'amore, mangiare, tutto quello che sappiamo, a un certo punto questa cosa qua la interrompano di colpo? Io credo di no. Cioè credo che dentro queste persone, entrambe, seppure magari una delle due si innamora di qualcun altro, oppure tutte e due, eccetera, comunque rimane qualcosa, no? Come... Bisogna imparare a gestire quel qualcosa. Sì. O a comunque a dirselo, a comunicarselo, a condividerlo. È un lutto. È un lutto. È comunque un lutto. Per tutta la vita cercare un appiglio, l'autunno che passa, ma forse sto meglio trovarsi per caso in un bar del centro e sentirsi speciale. Ma e questa era Elena Stancanelli, autrice di La Femmina Nuda, pubblicato dalla Nave di Teseo. L'abbiamo detto, è stato uno dei 5 libri finalisti al Premio Strega 2016. E su radio24.it potete trovare tutte le interviste ai finalisti dello Strega e naturalmente anche al vincitore Edoardo Albinati. Anche per oggi è tutto, grazie in regia Gianmarco Ferronato. Vi ricordo gli appuntamenti estivi col Cacciatore di Libri il sabato e la domenica alle 10 e quello tradizionale, quello non muore mai, il sabato alle 6.30 e in replica alle 22. Trovate tutto su radio24.it. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.